ingoio il brodo di vipera che mi hai preparato. Hai lasciato le pelli appese in mostra dietro alla porta. E in questa miseria non manca neppure il vino rubato. Ti guardo, hai una mano grande come un torace. Una mano grande per scavare una fossa. Una mano grossa per sollevare damigiane e bere. Hai una mano grande per indicare il futuro. Altrettanto grande per costruire un muro e tenere lontano il passato. Solo e due fratelli preti non ti salvano l'anima. Non è un merito per Dio, non lo è per Satana. La solitudine si insinua insieme alla follia sotto alla tua pelle. Con la mano, mentre una luce obliqua invasata. Nei tuoi occhi scappa via. Oltre il buio ed i burroni. La solitudine si insinua insieme alla follia. Attraverso le generazioni.